però salì sul minibus. Quel treno era roba seria, un lusso impossibile per gente come noi. Sembravamo in gabbia nelle spire di qualche procedura, come se qualcuno ci escludesse davvero. E avvenne, una volta tutti a bordo, per prima cosa cancellarono il nostro nome. Ci spiegarono che il futuro era uno solo: rubare, rubare, rubare nei centri commerciali. Sui sedili senza lavoro, zingari, barboni, poveri del terzo, quarto, ennesimo mondo. Se cercavi risposte, parole, spiegazioni, per questo disperato delirio erano botte. Cercamos.